Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Mi trovo nella località di Cannero, che è un piccolo paese sul rive del Lago Maggiore, nella sponda piemontese, in cima al Lago Maggiore. Questa località ha davanti a sé, a circa 300 metri dalla riva, dei meravigliosi castelli in rovina, affioranti dalle acque. Uno dei luoghi più romantici di tutta l'Italia, e questi castelli sono oggi nell'interesse pubblico perché i proprietari di questi castelli, che sono la famiglia Borromeo Arese, hanno deciso di restaurarli e di aprirli al pubblico. Questo avverrà da circa 3 anni, è stato fatto un progetto che naturalmente rispetta l'aspetto esterno di rovina, naturalmente, che noi oggi percepiamo e apprezziamo, ma saranno visitabili e saranno un museo di se stesso. Perché sono così suggestive e importanti? Cosa ci fa un castello in mezzo all'acqua? Beh, la storia risale proprio a 500 anni fa esatti, perché nell'ottobre del 1519 il conte Lodovico Borromeo fondò questa rocca chiamandola Vitaliana, cioè dall'origine della sua famiglia, i Vitaliani di Padova, per ragioni di sicurezza personale. E i Borromeo possedevano come feudatari questa parte del lago, ma avevano molti nemici, soprattutto i francesi e poi gli Sforza, che mettevano in pericolo addirittura la vita del conte. Il conte fortificò queste due isole vicine alla costa del lago per poter intercettare ovviamente le flotte che da sud potevano salire e insidiare la parte alta del feudo dei Borromeo. Questo castello è stato utilizzato molto poco come fortezza e ha resistito a una serie di assalti, e poi in realtà non è resistito al tempo, ai 500 anni che piano piano lo hanno ridotto senza i tetti, con i muri sbrecciati, in questo aspetto molto affascinante e romantico come lo vediamo noi oggi. La fortezza Vitaliana poggia le sue fondamenta su una fortezza più antica, la Malpaga, che era stata costruita da dei signorotti locali molto violenti, i Mazzarditi, e che la fecero come centro, diciamo, di partenza delle loro scorribande via lago. Erano chiamati i pirati del Lago Maggiore, ma a un certo punto da Milano arrivò l'ordine di Filippo Maria Visconti di dare una lezione a questi pirati, che naturalmente vennero assaltati, il castello venne distrutto, poi assegnata le isole ai Borromeo. I Borromeo ricostruiranno la Vitaliana, cioè i castelli che vediamo noi oggi.